Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ennesimo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, l'appuntamento di oggi insieme all'Adico ci porta a parlare dei saldi invernali che, come sappiamo, in Veneto sono cominciati il 3 gennaio, quindi possiamo già iniziare a fare un po' di statistiche su quelli che sono gli andamenti del mercato e delle vendite dei saldi. Sì, come è solito fare l'Adico, dopo una settimana circa d'avvio dei saldi, fa un primo bilancio di quello che è l'andamento anche rispetto all'anno precedente. Certamente quest'anno bisogna dire, come hai annunciato tu, che i saldi sono stati anticipati al 3 gennaio, questo anche nella speranza di dare un po' di fiato ai commercianti e anche a coloro che magari in questo caso hanno voluto approfittare della data per rinviare quelli che sono un po' anche gli acquisti di Natale, quindi certamente dei fattori che bisogna tenere conto per capire anche appunto se il dato può essere interpretato in chiave positiva o negativa. Ecco, noi come lo interpretiamo? Positivamente? Allora, diciamo che all'esordio dei saldi c'è stato un vero e proprio boom rispetto al 2014, addirittura si parla di un dato di vendite cresciute di oltre il 20%. Probabilmente il 3 gennaio, come detto, ha sicuramente influenzato molto quelle che erano delle abitudini delle persone. Però è anche vero che già il giorno dopo, ma già per dire lunedì e martedì, gli affari hanno cominciato a rallentare in modo vertiginoso. Tant'è che a questo punto, alla fine, al di là di quello che è stato un dato iniziale, diciamo, folgorante, alla fine, passati 2-3 giorni di ressa, ci siamo un po' attestati su quelli che erano un po' gli andamenti degli anni precedenti. E su quella che è un'indagine che l'Adico ha voluto fare riguardo anche alla media dei soldi che insomma le persone in quest'anno hanno speso o hanno preventivato di voler spendere, ne è uscito che il 43% ha dichiarato di spendere circa 150 euro a persona. Quindi una cifra abbastanza modesta, mi sembra di capire, 150 euro a persona, dipende poi dalle famiglie se sono numerose o no. Sì, certamente, giusto per dare qualche dato, oltre ai 150 euro bisogna dire che gli acquisti in saldo hanno riguardato il 53% l'abbigliamento, mentre l'anno scorso era il 57%, è aumentato il settore delle calzature, il 28%, e l'intimo che dall'8% è passato all'11%, mentre il restante 8% ha approfittato dei saldi invernali per acquistare prodotti che magari non rientrano nella logica di fine stagione, ma che magari sono comunque scontati, come per esempio possono essere gli elettrodomestici e i profumi. Ecco, quindi dati che certamente possono anche essere tenuti conto su quelle che un po' è stata la variazione rispetto all'anno precedente. Quindi una buona partenza, poi ci siamo ristabilizzati secondo gli andamenti consueti, diciamo così. Resta il fatto che è sempre un buon periodo quello dell'acquisto in saldo, perché insomma qualche buon affare lo si può fare. Sì, sicuramente si può fare qualche buon affare. Noi ricordiamo che anche quest'anno, come Adico, alla vigilia dei saldi avevamo lanciato la campagna Fotografa il tuo acquisto, proprio per evitare fregature, perché poi bisogna sempre tenere conto che in questo periodo, anche in virtù di quella che c'è della ressa, si può rischiare che non solo qualche buon affare si faccia, ma anche di vedersi rifilare qualche avanzo di stagione. Quindi sempre molta attenzione, informarsi, sapere che insomma si ha diritto alla sostituzione del bene qualora questo presenti dei difetti, ci sono 2 anni di garanzia qualora il bene presenti dei problemi rispetto a quella che deve essere o è la conformità originale, e per qualsiasi altra informazione i vigili urbani sono il referente per questa cosa, mentre l'Adico è sempre a disposizione per offrire qualsiasi tipo di informazione. Grazie, quindi all'Adico, ricordo il vostro sito dove si trovano i numeri di telefono, insomma gli orari di accesso, associazione difesa consumatori.it. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento con te Carlo è fra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.